30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca. Questa sera in onda qui in diretta dagli studi di Milano, in collegamento con L'Aquila, dove in questi giorni gli inviati di Radio 24, del Sole 24 Ore, i nostri collaboratori si sono alternati per raccontare le conseguenze drammatiche del sisma. Avete sentito nei nostri speciali, nei giornali radio, nelle nostre dirette, le voci e le cronache di Vincenzo Miglietta, Elisabetto Fiorito, di Mariano Maugeri, Daniele Morini, insomma i nostri inviati, le voci di Radio 24. E questa sera è con noi invece il collega Andrea Viali. Buonasera Andrea. Buonasera Gigi. Dunque, questa sera tu sei in Piazza d'Armi, il campo di Piazza d'Armi. Sì, Piazza d'Armi è la tendopoli più grande di quelle allestite qui nella zona terremotata dell'Aquila. Ci sono più di 1400 sfollati e diverse decine di tende. Ecco, naturalmente, come dice il nome stesso, è un grande spazio con un campo sportivo, una pista, insomma, un luogo. Un campo sportivo, diciamo, c'è una pista di atletica dove sto camminando in questo momento, delle piccole tribune, un campo, diciamo, un campo in erba dove sono state allestite molte tende e molte altre invece sono ai lati di questo campo sportivo. Quando sono arrivati intorno alle 5:30 del mattino di lunedì, dopo la scossa violentissima delle 3:32, poi sentiremo anche il racconto dei medici, questo luogo era ovviamente, come deve essere un campo sportivo a quell'ora di notte, un luogo chiuso, un luogo fermo dove in realtà si è innescata proprio la macchina dei soccorsi e subito è stato un luogo sicuro, perché naturalmente per chi nel centro storico dell'Aquila, quindi una città antica di palazzi antichi e di vie strette, si trattava di fuggire dalle case che cadevano, dai pezzi di case che precipitavano sulle strade. Ora questo campo, ora come è organizzato? Organizzato, devo dire, c'è un'attività che definire febbrile è poca, perché se ci sono 1400 sfollati ci saranno altrettanti volontari, uomini della protezione civile, vigili del fuoco, uomini delle forze dell'ordine. Come è organizzato? Si cerca di dare una normalità, dei ritmi con delle attività che possono ricordare la normalità in realtà. In questo momento è ora di cena e gli sfollati sono in fila e nelle cucine mobili si stanno preparando i pasti che verranno serviti a minuti. Tra l'altro c'è una novità stasera, perché c'è un grosso tendone giallo che questa sera per la prima volta è stato allestito come mensa. Sono arrivate delle pedane che sono state messe sull'erba e sono arrivati anche dei tavolini con delle sedie di plastica, per cui stasera, per la prima sera, gli sfollati potranno mangiare seduti ad un tavolo. E è una piccola cosa, però ecco, è qualcosa, si vive anche di queste piccole cose nel campo. Sì, è una piccola cosa se si tratta magari di saltarlo una volta, un giorno, mentre sei fuori di casa. Effettivamente è una cosa importante in un percorso di questo tipo. Ecco, aiutaci a capire Andrea, naturalmente sono persone che hanno dovuto lasciare, ovviamente improvvisamente, repentinamente, nella notte la propria casa, quindi si tratta di persone che diciamo in molti casi non avevano letteralmente nulla. Penso in quasi tutti i casi, mi sento di dire certo. Questo Gigi, tra l'altro poi ci sono, diciamo, il campo è frequentato da qualsiasi tipo di persona, ho visto da badanti romene, quindi da stranieri, a non so, donne evidentemente di famiglia agiata, tutte vivono a gomito, tutti hanno gli stessi problemi. E tra l'altro un problema, che c'è un'altra novità, questa non è positiva, è che da poco è iniziato a piovere, non piove molto, in realtà però il cielo è coperto da nuvole minacciose e questa cosa sta anche un po' preoccupando, sentivo prima parlare alcuni responsabili dei vigili del fuoco, perché pare che le previsioni per domani non siano particolarmente buone. Ovviamente sì, ecco, purtroppo, diciamo, della pioggia si fa volentieri a meno qui, perché sia qui che negli altri campi sfollati, perché ovviamente sono tutti costruiti su terra, non sono su zone asfaltate, quindi evidentemente una pioggia troppo battente creerebbe un pantano e rischia di infiltrarsi poi nelle tende, ecco, insomma, non, sì, certo, non è una ecco, bella prospettiva. Ti dicevo, purtroppo è vero, nel senso che proprio poco fa guardavo e ascoltavo anche attraverso gli aggiornamenti proprio che mandiamo in onda Radio 24 le previsioni che sono negative. Ancora una volta come cambiano rapidamente le prospettive e le conseguenze delle cose, in cui quello che appunto normalmente è un weekend rovinato, un pranzo di Pasqua al chiuso, diventa un problema, anche perché non dimentichiamo che l'Aquila è in quota, l'Aquila è un paese, è una città di montagna di fatto, e quindi anche la temperatura immagino non sia caldissima. Sì, la temperatura, devo dire, allora, nella prima parte della giornata oggi c'era il sole, si stava bene in camicia, per farti capire, certo. E a tratti quindi è stato proprio, insomma, una giornata calda, poi il cielo si è coperto e andando avanti nel corso del pomeriggio la temperatura si è abbassata, sopra la camicia abbiamo messo il maglione, sopra il maglione abbiamo messo la giacca, in questo tra poco saremo costretti ad aprire anche l'ombrello. Ecco Andrea, tu hai giustamente poco, parli giustamente della vestizione. Tutto questo è stato un percorso, perché come dicevamo le persone sono arrivate sostanzialmente nude nei loro oggetti, nei loro effetti personali, poi è partita una macchina in vari momenti naturalmente nei giorni successivi, che significa anche distribuire gli indumenti, distribuire cose pratiche, distribuire le cose per lavarsi, per andare appunto nei bagni. Volevo capire come è organizzato e se a tuo avviso questa fase ha raggiunto in qualche modo un momento di stabilità. Ma dal punto di vista della distribuzione, per esempio, di vestiti, di generi di prima necessità, in questo momento credo che qui ci sia tutto quello che può servire, ovviamente parliamo di prima necessità. Di base, certo. Sì, certo, stanno facendo un grande lavoro tutti i volontari che sono impegnati nella distribuzione di questi beni, in particolare, ecco, appunto, vestiti, ma anche, non so, giocattoli per i bambini, dentifricio, qualsiasi cosa, perché come dicevi, appunto, qui molte delle persone che alloggiano in queste tende, che stanno dormendo in queste tende, sono uscite di casa in pigiama praticamente domenica notte e soltanto pochissime in realtà sono riuscite in qualche modo a rientrare nelle loro case, che evidentemente non erano crollate, per recuperare qualcosa, ecco. Per il resto dipendono totalmente dagli aiuti e dalla distribuzione. Ecco, a questo proposito, Andrea, scusa, tu hai intervistato non più di un paio d'ore fa uno dei volontari che diciamo affronta e sostiene, ognuno nelle proprie capacità e possibilità, la distribuzione. Io direi di sentirlo un momento, poi ci spieghi, perché c'è un elemento che colpisce e che richiede un approfondimento. Paolo, sei un volontario dell'unità, se voi vi occupate della distribuzione degli aiuti agli sfollati, esattamente cosa fate? Allora, qui all'Aquila, al campo, raccogliamo tutti la merce che arriva da varie parti dell'Italia, che si è mossa per aiutare queste persone, le dividiamo in base alla tipologia del materiale che arriva e le distribuiamo nei vari campi dove hanno bisogno di questo materiale, che sia roba da uomo, da donna, da bambino, vari giocattoli, medicinali e anche pannolini, pannoloni e traverse per le persone diversamente abili. Ecco, qua ci sono molte persone in fila e a controllare ci sono anche dei volontari, dei carabinieri. Voi siete anche stati costretti a dover chiedere documenti, a rilasciare delle ricevute, perché c'è chi se ne approfitta di questi aiuti. Cosa sta succedendo? Ecco, purtroppo siamo stati spettatori di scene un po', diciamo, al limite dello sciacallaggio, di persone che si mettevano in fila approfittando della buona volontà di tutte le persone che stanno lavorando qui come volontari, per recuperare quanto più materiale possibile, portarlo fuori dal campo e, diciamo così, rivenderlo. Poi ci sono varie storie che girano qui, non so quali siano più vere o meno vere. E comunque siamo stati costretti a chiedere aiuto ai volontari dei carabinieri per controllare e fermare questo traffico di merce che usciva in quantità industriali dal campo. Ecco Andrea Viali, lo ricordo, in diretta con noi dall'Aquila, da quello che è il principale campo di raccolta, la piazza d'armi, il principale campo di raccolta di questo post terremoto. L'abbiamo detto in apertura, oltre 1400 persone raccolte in 220 tende, il che ci porta anche a riflettere sul fatto che comunque ogni tenda di fatto è come una famiglia allargata di 6-7 persone. Insomma, in questa città involontaria e costruita nell'emergenza ci sono persino i furbi. Ecco, sì, questo ragazzo che abbiamo sentito si chiama Paolo, lavora per un'organizzazione che si chiama Unitalsi, che si occupa appunto di questa cosa. In effetti sì, ci hanno raccontato delle scene che veramente si fa fatica a credere, gruppi di persone che si scambiavano un neonato per andare a ritirare dei pannolini, e quindi uno alla volta prendevano questo neonato, lo spacciavano per loro figlio, soltanto per prendere il numero maggiore possibile di pannolini, ecco, insomma, certo, io che non vorremmo vedere, ecco. Certo, io poi ho detto istintivamente i furbi, mentre ti ascoltavo riflettevo anche su chissà quali complesse dinamiche possono entrare nella testa di una persona, naturalmente in circostanze di questo tipo, chissà quali preoccupazioni su quello che appunto accadrà e sul sostegno che avranno nei prossimi giorni. Credo che sia evidente a tutti, tra noi giornalisti, a chi è in ascolto, di come effettivamente la presenza in questo giorno delle istituzioni sia stata molto forte, le promesse ripetute, l'abbiamo raccontato pochi istanti fa, domani ha annunciato ancora il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi all'Aquila, al Presidente della Camera. Insomma, da un lato c'è una partecipazione enorme, migliaia di persone che stanno partecipando e sostenendo la ricostruzione, o meglio l'intervento dell'emergenza, e favoriranno la ricostruzione. Nello stesso tempo poi ci sono le paure di rimanere abbandonati. Sì, però certo, riguardo a questo episodio specifico, diciamo, ci possono essere delle motivazioni, diciamo, psicologiche che possono spingere qualcuno a prendere più cose possibile. In realtà però il sospetto è che a fare queste cose siano state persone che non sono in realtà neanche degli sfollati, ma sono delle persone che hanno saputo che qui venivano distribuiti beni di prima necessità gratuitamente e ne hanno approfittato. Devo dire, adesso non voglio criminalizzare nessuno, però erano soprattutto stranieri, mi hanno detto, erano soprattutto stranieri a fare questa cosa. Ripeto, però, ecco, lungi da me la volontà di criminalizzare qualche comunità. Sì, assolutamente. Tra l'altro, in particolare, tra l'altro, come ti dicevo, qua nel campo tra gli sfollati ci sono moltissimi stranieri e sono, certo, persone assolutamente dignitose. Ma è chiaro, immagino, voglio dire, la ricostruzione anche in questo del campo che hai descritto molto bene all'inizio, si è spostata una fetta della comunità che comprende appunto tutte le forme, tutte gli esponenti della comunità in questo campo. 30 minuti in cronaca. 19:46 minuti, rieccoci in diretta questa sera in collegamento con Andrea Viali, nostro inviato all'Aquila. Come avete sentito, ci sta parlando da Piazza d'Armi, questo grande campo tenda, simbolo in qualche modo di questa tragedia, probabilmente assieme al villaggio di Onna, che avremo tutti, credo, visto molte volte, visto quanto drammaticamente sia danneggiato questo borgo agricolo. Piazza d'Armi però è il posto dove sono stati raccolti il numero maggiore di sfollati, oltre 1400 persone in 220 posti. Abbiamo sentito anche delle preoccupazioni e di eventi invece che in questa storia, diciamo, si inseriscono come dei corpi totalmente strani. Ma Andrea, raccontaci quali sono i problemi pratici ora, naturalmente compatibilmente alla situazione. Cos'è che le persone chiedono più di tutto? In questo oggi, devo dire, in particolare comincia a fiorare un po' di comprensibile nervosismo, se vuoi, insomma, tra gli sfollati. E qui il problema principale, i problemi principali dal punto di vista pratico direi che possono essere due. Uno è il riscaldamento delle tende, perché come ricordavi prima, L'Aquila è una città che è tra le montagne e qui la notte fa parecchio freddo. L'altro problema è sempre legato alla temperatura, ma quella dell'acqua, perché sono state allestite delle docce, però in 5 giorni non si è ancora riusciti a collegare una caldaia che c'è, non è arrivato l'approvvigionamento di gas. Ci sono state una serie di problemi tecnici che i volontari, che stanno facendo un grande lavoro al momento, purtroppo non sono ancora riusciti a risolvere. Contavano di collegare questa caldaia ad alcune docce già stasera, ecco, però sostanzialmente l'acqua calda e il riscaldamento sono i problemi pratici principali in questo momento. Quindi ci sono le docce, ma l'acqua è fredda, il riscaldamento, l'hai detto poco fa, tra l'altro purtroppo in questi minuti e come da previsioni del tempo è iniziato a piovere nella zona. Siamo in una città alta in quota, quindi la temperatura è fredda. Speriamo di poter, come dire, dare anche presto in diretta nelle vostre cronache il racconto che questo tipo di problemi sono stati superati. Poco fa hai parlato delle attese degli sfollati che naturalmente cercano di recuperare le proprie cose, i propri effetti personali. Ecco, leggo un'agenzia, proprio in queste ore anche viene annunciato dal comune dell'Aquila come ci siano purtroppo delle lunghe attese per gli sfollati che devono essere accompagnati ovviamente dai vigili del fuoco, quindi stanno cercando di intervenire famiglia per famiglia, nucleo per nucleo, per vedere se è possibile recuperare qualcosa, qualsiasi cosa. Tra l'altro immaginate anche la complessità, prima Andrea Viale ci parlava di chi fa il furbo, beh è chiaro che qui siamo in una situazione priva di documenti, priva in qualche modo di identità. Partiamo ora invece e parliamo di un altro aspetto, che è quello dell'organizzazione sanitaria. Naturalmente le prime ore sono state quelle dell'intervento, della creazione proprio di una struttura da campo che potesse aiutare i feriti gravi, che in molti casi purtroppo sono poi diventati vittime, e progressivamente intervenire insomma sulla gravità del fenomeno che si andava manifestando. Noi ne abbiamo parlato con il dottor Gaetano Pallini, che è responsabile del 118 di Teramo e che è diventato, suo malgrado, responsabile del centro medico avanzato di Piazza d'Armi. Il nostro intervento è stato intanto sulla spinta del fatto che eravamo la provincia limitrofa e quindi abbiamo sentito direttamente il terremoto senza attendere le notizie dei mass media. Abbiamo aspettato qualche momento per essere certi che non ci fossero necessità nella nostra provincia e poi ci siamo attivati. Siamo partiti, noi abbiamo un sistema che è di collaborazione intima con l'apparato logistico della Croce Rossa. Siamo arrivati direi intorno alle 6:30 la mattina, abbiamo individuato Piazza d'Armi, e con un contatto preso dalla Croce Rossa non abbiamo trovato nessuno, tant'è che abbiamo cesoiato la recinzione. Siamo andati lì, abbiamo cominciato a montare questo campo, abbiamo cominciato a accogliere i feriti. Per fortuna, se si può dire fortuna in questi casi, c'era una situazione climatica abbastanza buona, per cui i pazienti sono stati messi anche fuori dalle strutture coperte. L'andamento degli interventi in una maxi emergenza ha un decorso naturalmente modale, nel senso che nella prima fase in genere arriva un grosso numero di feriti di varia tipologia, molti appiedati, molti con mezzi propri, altri presi dalle ambulanze che sono attivati in quel momento, quindi quello che impressiona è la quantità. Man mano che si attivano le risorse, comincia a calare il numero degli interventi, ma aumenta la gravità degli stessi, quindi sindrome di accecamento, diminuisce il numero ma aumenta l'impegno tecnologico, l'impegno professionale, per cui c'è bisogno di specialisti veramente, per fortuna li abbiamo avuti. In una fase successiva ancora comincia a ritornare quella che può essere considerata la patologia prevalente normale, fino ad arrivare parecchi giorni dopo, ecco oggi per esempio è stato un caso in cui c'è un afflusso prevalentemente di patologie croniche riacutizzate, di tutti quei problemi, cioè che per noi che siamo per fortuna viviamo in condizioni di normalità rappresentano la quotidianità, la terapia per l'ipertensione, il controllo, il dosaggio di alcuni esami per chi fa terapia anticoagulante. Qui invece il problema è naturale e comprensibile, è che c'è una struttura sanitaria distrutta e quindi l'unico punto di riferimento diventa quella campale, che deve rispondere necessariamente anche a quesiti che normalmente non farebbero parte delle proprie competenze. Già, perché per il medico dell'emergenza, e l'avete sentito, e approfittiamo per ringraziare i molti medici che, come il dottor Pallini, che lo ricordiamo responsabile del 118 di Teramo, si sono messi a disposizione, hanno fatto un lavoro eccellente di intervento, vivono anche la rapida comunque trasformazione di quella che è l'emergenza delle prime ore in questa di fatto, so che è strano sentirlo dire, ma normalità del campo, il campo che deve comunque riprendere e organizzare la propria vita, e anche le patologie, come l'avete sentito, poi diventano quelle della vita quotidiana. Andrea Viale, a proposito di normalità, i bambini sono una parte di questo campo. I bambini, sì, i bambini ce ne sono diverse decine, diciamo parecchi in questo campo, e naturalmente, come anche giusto, su di loro si concentrano molte attenzioni, forse molte più di tutti gli altri sfollati, proprio perché i bambini, lo sappiamo, sono più deboli. Quindi insomma ci sono, è stata allestita una piccola ludoteca, hanno moltissimi giocattoli, ma ci sono, forse molti li avranno visti in televisione, anche dei medici clown o dei clown. Oggi sono arrivate anche delle piccole compagnie teatrali che hanno fatto degli spettacoli proprio per loro. Ogni tanto si sente parte una musica a volume altissimo, perché è l'animazione che è dedicata proprio ai bambini, per non farli pensare insomma a cose più gravi. Sappiamo che molti di loro hanno anche perso parenti, genitori, ecco, in qualche modo si cerca di proteggerli anche in questo modo. E devo dire, insomma, in continuazione merendine, adesso con la Pasqua abbiamo visto uova e colombe, insomma. Senti, ma i bambini ridono? Ridono, sì, devo dire. Poi ogni tanto, però, ne ho anche visto qualcuno che invece di guardare lo spettacolo teatrale aveva un po' lo sguardo nel vuoto, così, insomma. Credo anche che per gli adulti aiutare i bambini sia un modo formidabile invece per aiutare proprio noi adulti in questa, in una situazione così drammatica. Scusa Andrea, stavi parlando? No, avevo finito. Dunque, in questo campo naturalmente ci sono anche, è scandita anche la vita da quelle che sono i momenti istituzionali. Abbiamo detto poco fa di come ci sia una presenza forte di tutte le massime cariche dello Stato. Oggi è stato il giorno del presidente del Senato Renato Schifani, che è stato in visita al campo. L'abbiamo anche visto poco fa, l'abbiamo raccontato. Ci sono stati anche come dire, neanche delle polemiche, perché questo termine è abusato, ma insomma c'è stata come dire, l'espressione della fatica e la stanchezza proprio da parte di una dottoressa che dice insomma abbiamo bisogno di più cose pratiche e meno strette di mano. Sì, la stessa scena si è ripetuta anche un po' dopo con uno sfollato, quindi hanno detto sì, cioè, possono anche andare bene le strette di mano e... però in realtà qua abbiamo bisogno di fatti concreti, aiuti concreti, e in particolare tutti e due, sia lo sfollato che la dottoressa, facevano riferimento in particolare, ne abbiamo parlato già, all'acqua calda e al riscaldamento, ecco, però insomma è anche comprensibile da parte loro, diciamo, un certo nervosismo, quindi anche certo, la voglia di sfogarsi con chi rappresenta le istituzioni. Ma d'altra parte dobbiamo dire che qua comunque le istituzioni, per quanto ho visto io, insomma, stanno facendo veramente il possibile, e anche loro è andato il ringraziamento di Schifani, insomma, anche insomma chi ha i volontari, intendo ovviamente. Sì, no, assolutamente, c'è stata una partecipazione, c'è una partecipazione, direi, non solo emotiva ma di sostanza da parte dell'intero paese, che insomma non possiamo che sottolineare. Per quanto riguarda, ecco, parlavamo, prego, Andrea, di diciamo visite istituzionali, ecco, ricordiamo che domani saranno qui per passare la Pasqua assieme agli sfollati sia il presidente della Camera Gianfranco Fini sia il presidente del Consiglio Berlusconi. Ecco, per la Pasqua domani ricordiamo anche che in ogni tendopoli verrà celebrata una messa, e poi ci sarà più tardi una messa, diciamo, globale, se mi passi il termine, che verrà celebrata dall'arcivescovo dell'Aquila nella scuola della Guardia di Finanza, dove ieri ci sono stati, lo ricordiamo, i funerali solenni di gran parte delle vittime di questo terremoto. Grazie ad Andrea Viali, lo ricordo, in diretta questa sera. Sentiamo, abbiamo parlato dei bambini, sentiamo distintamente lo sfondo, le loro voci, insomma, immaginiamo e speriamo, come è giusto che sia, che in queste, eccoli, li sentiamo chiaramente, che stanno giocando a pallone, mi sembra un'ottima cosa. È un ringraziamento dunque al nostro inviato all'Aquila, un ringraziamento a tutti i nostri inviati e colleghi che in questi giorni appunto stanno lavorando per cercare di raccontare, in fondo anche questo il nostro ruolo possibile, quello che accade, quello che non va. Abbiamo in qualche modo tutti registrato, credo, quell'elemento così pratico ed essenziale quanto di come può essere una doccia calda. Speriamo nel prossimo collegamento di segnarlo tra le cose superate. Intanto a me non resta che salutarvi, ringraziare Giorgio Mattei che è in regia questa sera, e ricordarvi che dopo il GR delle 20 andrà in onda Mebius di Federico Pedrocchi, dove ci sarà anche modo di parlare di questa crisi, naturalmente da un profilo scientifico, un tema che nei giorni scorsi ha suscitato anche molte polemiche. Un saluto da parte mia.